tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e congratulazioni alla Fiorentina, che doveva essere la Cenerentola delle quattro squadre italiane in Europa ed è stata invece la prima a passare. Comincerei proprio dalla soddisfazione che Prandelli ha giustamente manifestato dopo questa vittoria sofferta soprattutto nel finale contro il Lione. I ragazzi hanno interpretato veramente molto bene la gara, sono stati bravi per 80 minuti, poi erano sicuramente molto stanchi, i tre cambi sono stati cambi tutti dettati per la stanchezza, però quando la squadra è generosa così si può anche soffrire 10 minuti alla fine. Noi pesava sicuramente la gara in sé, perché volevamo entrare nella storia, come abbiamo detto prima, pesava perché arriviamo da una sconfitta, pesava perché potevamo complicare veramente un girone fatto molto bene, e quindi c'era tensione, c'era un po' di ansia, ma ho cercato soltanto di far capire che è comunque sempre una partita di calcio, le cose che sanno fare in campionato le possono fare anche a questi livelli. Chiaramente gli interpreti sono diversi, ma quando hai la palla lo sviluppo deve essere simile. Salve Garanzini, è uno dei non so quanti centinaia di messaggi già arrivati prima, ben prima che la trasmissione iniziasse. Questo è firmato Giuseppe, mi consente una battuta: l'Inter aveva un solo Eto'o e il Barcellona aveva 11 Eti. Vabbè, ci arriviamo un pochino per volta, dopo aver ascoltato anche la voce di un protagonista fisso della Fiorentina, non che non se ne parli, ma forse meno di quanto meriterebbe. Ieri sera c'era anche una partita nella partita, visto che il portiere Lione è il titolare della nazionale di Francia, mentre Frey è quello che Domenech non vuole vedere, di cui non vuole neanche sentir parlare. Quindi sentiamo un po' Frey alla fine. Avevo tante motivazioni stasera e devo dire che è una soddisfazione immensa aver passato, insomma, il girone, perché penso che in pochi se l'aspettavano. Mi voglio godere il fatto di essere entrato nella storia questa volta della Fiorentina. È già un bel traguardo nella mia carriera e insomma anche per la squadra con cui gioco. Noi ci tenevamo comunque a lasciare un'impronta a livello europeo, devo dire che ce l'abbiamo fatto e quindi siamo veramente molto contenti. Non è possibile, scrive Luigi da Reggio Emilia, che alle 14 sparisca sempre il segnale di Radio 24. Cos'è, un sabotaggio mirato? Beh, mi auguro di no, Luigi. C'è qualche segnalazione anche a Modena e nel Modenese, Pavullo, sul Frignano, eccetera. Speriamo, sicuro che i tecnici provvederanno in tempo reale, ma non c'è dubbio che insomma la prima di queste due serate di Coppa si è vissuta innanzitutto sulla lezione di calcio in piena regola in partita all'Inter dal Barcellona. Ho selezionato una serie di commenti arrivati stamane, in nottata e stamane, per posta elettronica, e ci tengo a congratularmi sinceramente con la maggioranza degli autori, perché tra i vostri commenti e quelli che si sentono per esempio su certe TV private, ma non solo, c'è, devo dire, un abisso, ma un abisso di qualità e di competenza ovviamente a vostro favore. Ve ne propongo alcuni, per esempio comincerei con Gianluigi Calestani, che scrive da Parma e non c'è bisogno di dirlo perché Calestani è un cognome parmigiano. Tutti i commentatori hanno sottolineato la lezione tattica, scrive Gianluigi, che il Barcellona ha inflitto alla mia Inter. Io invece sono rimasto stupefatto dalle qualità tecniche dei giocatori di Guardiola. Non solo la precisione nei passaggi e nel controllo di palla, per esempio quello stop in corsa di Pedrito da antologia tra due difensori su un lancio da 50 metri nel finale, ma soprattutto per la velocità siderale con cui venivano eseguiti i fondamentali, che è la verità, esattamente la fotografia chiave della partita di ieri sera. Impossibile per l'Inter organizzare un pressing, quando arrivava il raddoppio di marcatura il pallone era già dall'altra parte del campo. Quindi, a parer mio, e io lo condivido in pieno questo parere, una splendida lezione di tecnica individuale in un secolo nel quale si crede che il calcio sia diventato solo corsa, forza fisica, diagonali difensive e ripartenze. I giocatori dell'Inter erano sfiniti, quelli catalani avevano invece fatto sudare il pallone, come dice un nostro padre fondatore, scrive Gianluigi Calestani, che è Lidl, che era evidentemente Nils Lidl. Ecco, io questo lo considero un editoriale, no? E sono fierissimo che ci siano ascoltatori di questa qualità, ripeto, soprattutto se paragonati a certi commentatori di professione invece, che si sentono abbaiare in giro. Voci, per esempio per esempio alcune voci di Mourinho. Allora, diviso Franco Piantanita ha diviso in tre frammenti. Sentiamo il primo. Loro vanno una struttura di gioco con giocatori ovviamente che messi Ibra, però Henry come centravanti i suoi movimenti sono bravi, Pedro è non è un Messi perché Messi è Messi solo uno, però Pedro è un gran giocatore, chissà Schneider a noi ha mancato molto molto di più che questi due giocatori a loro. È una partita secondo me senza grande storia, perché in primo tempo loro molto meglio di noi, non meglio, molto meglio di noi, sono meglio di noi, hanno giocato meglio di noi, hanno vinto meritatamente. E fin qua mi pare ci sia poco da obiettare. La stampa spagnola, la rassegna di stamattina, allora Marca titola: per così poca Inter non c'era bisogno di Messi e di Ibrahimovic. Il titolo, questo è il sommario, il catenaccio, mentre il titolo dice: Guardiola divora Mourinho. Ah no, questo Guardiola divora Mourinho è il titolo dell'Avanguardia. Per AS, che è il quotidiano sportivo di Barcellona in particolare, il Barça ha messo a nudo l'Inter, che è stata definita sempre da AS una squadra con più nome che calcio, insipida, spenta, senza idee, deludente. Il titolo su questa analisi, il titolo di ripresa su questa analisi è tristissimo, ovviamente con una S sola. Il periodico scrive: Guardiola distrugge il mito di Mourinho, che ha, sempre secondo questa versione, alzato bandiera bianca dinanzi al collega spagnolo. Sentiamo il secondo Mourinho. Dopo una partita che si perde senza nessun tipo di dubbio, non mi piace né parlare di Schneider che non ha giocato, né del rigore che è stato netto, perché loro hanno meritato vincere. E questo era ancora sempre un Mourinho, come dire, atipico, no? A parer mio. Poi invece credo che arrivi il Mourinho che finalmente riconosciamo, perché sennò stavamo sinceramente in pensiero. Sentiamo. Con 2-1 la partita poteva essere diversa. Siamo arrivati una o due volte, abbiamo fatto un altro tiro. Ripeto, abbiamo avuto un rigore che a me mi sembra netto, però qua a Barcellona sappiamo com'è la storia. Barcellona è Barcellona, se quel rigore succede nell'area dell'Inter non ci pensa due volte. A Roma se la cavano con tre parole: la prima è cortissima, e la seconda è te, e la terza è pareva, e te pareva, possibilmente con due T per far sentire l'accento romano. Altri problemi di ricezione segnalati tra Modena e Bologna da alcuni ascoltatori. A Cernobbio, vicino a Como, Claudio segnala a sua volta un deficit d'ascolto momentaneo. Tutto si risolverà, almeno mi auguro. Cominciamo con gli ascoltatori. Gianni Agrigento, buongiorno. Buongiorno. Dica. Prima voglio fare un piccolo rimprovero. Quando lei parlava di Ranieri, non è più stato per cessare la Juventus. Se il mezzo di poi, anche nel Juventus si protestava, però sembra che arbatamente... Gianni, Gianni mi perdoni, proviamo a richiamarla, perché la qualità dell'ascolto è davvero, davvero pessimo. Proviamo a richiamarla a breve. Andiamo a Pisa, da Antonio, buongiorno. Buongiorno Gigi, io ho già chiamato qualche volta e dico sempre, lo ripeto, che da quando non c'è più Ciotti è la consolazione della radio parlare con te e sentirti. Io sono un non vedente, per cui volevo dire prima una cosa di carattere, diciamo così, mediatico, nel senso che per noi, lo so che non si dovrebbe parlare della concorrenza, però i radiocronisti di Radio Rai, io continuo a seguire il calcio perché ci sono i radiocronisti di Radio Rai, perché altrimenti non ce la farei più. Per esempio non riesco più a vedere la nazionale, mentre con Pizzul vedevo la nazionale con i miei amici e sentendo Pizzul ora... Non capisco nulla, se la vedo così, la vedo con i miei amici, però loro sentono la cronaca, io sento la radio, per cui tra l'altro sembro il Tiresia, l'indovino cieco che prevede il futuro, perché il segnale radio arriva leggermente prima, quindi io già esulto e impreco quando loro vedono il cross che parte dalla fascia, perché io so già la destinazione, insomma c'è questa cosa carina, per cui se una volta parlate di radiocronisti in maniera, insomma, non solo quelli delle radio private, come avete parlato una volta, di modi, proprio studiare il pianeta radiocronaca mi farebbe molto molto piacere. D'accordo. L'altra cosa velocissima è Mourinho. Io vorrei paragonare, cioè, di Sacchi si dice sempre la stella di Belgrado che ha lanciato Sacchi, ed è vero. Secondo me Mourinho è stato lanciato dai 45 minuti di crisi totale del Milan che ebbe a Deportivo la, col Deportivo La Corogna, perché quell'anno lì Mourinho vinse appunto la Champions League, che poi non vinse più. E lo vinse secondo me perché quel Milan, che era fortissimo, vinse lo scudetto, andò in finale di Coppa dei Campioni di Champions League. Beh, una riflessione interessante. Antonio, la ringrazio del suo intervento. Mi spiace che a Como ci siano problemi di ricezione, perché a proposito di analisi scritte, che ci tengo a leggervi oggi in particolare, ne arriva una da Como proprio, firmata Carlo Felli, che dice, che scrive: ieri ennesima dimostrazione che non sono gli allenatori e forse nemmeno i giocatori a determinare le fortune di un club, ma è la filosofia del club stesso. Il Barça gioca così da 15 anni, io la correggerei, direi 30, cambiando giocatori e vendendo anche i pezzi pregiati. Dopo Cruyff, che in effetti è il fondatore, aggiungo io, è sempre interpolando questa eccellente analisi, il Barcellona ha sposato la filosofia del calcio totale, il possesso e movimento senza palla, le giovanili seguono questo credo, viene curata molto la tecnica individuale e i fondamentali. Una volta portati in prima squadra già sanno cosa fare. Le nostre squadre giovanili, per esempio quella dell'Inter, gioca molto sul ritmo, con molti palloni buttati in avanti un po' a caso. Cosa ne consegue? Che la prima squadra, conclude Carlo Felli, dell'Inter non ha un'identità precisa, una filosofia chiara, mentre quella del Barcellona si vede di che livello sia. Condivido in pieno. Gianni Agrigento, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, adesso... Le volevo dire un piccolo rimprovero. Sì. Quando lei ha parlato di Ranieri, che ha protestato contro la Roma, contro l'Inter, se si bene si ricorda, anche nella Juventus facciamo lo stesso, però sempre educatamente e mai come vanno l'interista a piangere sempre. Comunque questa è una piccola. Poi le volevo dire, la differenza tra l'Inter, campionato e Coppa, secondo me è la differenza è Collina, che in Coppa non riesce a mandare gli alberi giusti per farci vincere le Coppe campioni. Bravo, va magnificamente, le garantisco. Era andata così bene che non si sentiva prima, purtroppo. Purtroppo mi ha beccato una linea migliore. Tornerei alle analisi scritte, che mi sembra, e anzi, se andiamo avanti così, dato che ne ho tante davvero e di valore, non so quante altre telefonate andranno in onda. Guardando la partita di ieri sera, scrive Roberto Vergani, tra Barcellona e Inter ho notato anche il rispetto che Guardiola porta ai suoi giocatori. Scegliere di non rischiare Ibra e Messi in una partita con qualificazione a rischio, aggiungo una parentesi io, e con il Real Madrid alle porte, chiudo la parentesi, e dar fiducia a Pedrito è, a mio avviso, scrive sempre Roberto Vergani, un segno di rispetto alla carriera dei due campioni e contemporaneamente di fiducia alla rosa della squadra. Aggiungo anche che in campo c'erano 7 spagnoli e 4 stranieri, il Barça sarebbe già in un eventuale parametro Blatter. E anche questa è un'osservazione molto ma molto interessante. Poi questo ascoltatore ringrazio in modo particolare il servizio podcast, perché dice: sono un lavoratore dipendente e per motivi di orario l'unico modo per seguire la trasmissione è il servizio podcast. Quindi ringrazio in modo particolare ringrazio anch'io, perché ricevo sempre più mail di questo tenore e appunto di gente che per ragioni professionali è costretta poi ad affidarsi a questo servizio, che per fortuna funziona splendidamente. Speriamo funzioni bene anche il servizio di ripristino della diffusione, perché per esempio adesso arriva a San Lazzaro di Savena, insomma sulla via Emilia oggi ci sono in particolare i problemi, oltre che nella zona del Comasco. Simone ha chiamato da Massa, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Due cose, un consiglio alla Juventus per quanto riguarda Decori contro Balotelli. Sì. Che entrassero in campo con una maglia a favore di Balotelli stesso, in maniera tale che i tifosi vedono che i propri giocatori stessi sono così, hanno una considerazione verso questo giocatore positiva, in maniera tale che almeno ai giocatori e la società Juventus dimostri con i fatti è chiaro, è chiaro. E altra cosa, vorrei sapere se Moratti, dalle dichiarazioni di Mourinho ieri sera, quando dice che il Barcellona è ancora una squadra superiore da un punto di vista tecnico, cosa dovrebbe fare Moratti? Dovrebbe comprare Xavi? Non lo so, probabilmente sì, perché avendo investito così poco in questi anni, immagino che sia una... Lui ha provato a contentarlo, no? Quest'anno con Snyder, l'anno scorso addirittura con Quaresma, mi pare, no? Che ieri sera a momenti ribalta la partita nel finale, come avrà notato. E però, insomma, non sempre si può soddisfare fino in fondo un allenatore. Lei ha parlato del caso Balotelli. Ci sarà uno spazio nella seconda parte, dopo l'intervallo per i mercati, perché stamane c'è stato un... insomma, questo tema è stato trattato in 24 mattino da Alessandro Milan, anche con un sondaggio. Vi vorrei aggiornare su questo sondaggio ricordandovi il tema, ma vorrei soprattutto farvi ascoltare due interventi di alta scuola, anche perché firmati Gianni Rivera. Marco ha chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Intanto una premessa, che lei è l'unico che riesce a parlare di calcio come si deve. Ma io la ringrazio di questo, però io sarei più contento se queste cose, anziché dirle, le sottintendeste rivolgendovi a questa pregiata ditta in diretta ed evitando che qualcuno pensi che c'è il culto della personalità. No, grazie, no, comunque, dica Marco. Non siamo parenti, quindi... Ma no, lo so Marco, però sa com'è. Dica. No, vabbè, comunque, un breve intervento volevo farle. L'anno scorso, quando l'Inter fu eliminata dal Manchester, il presidente Moratti e anche i tifosi dissero che il gap si stava riducendo. Dopo la partita di ieri sera, a me sembra che il gap con le grandi squadre sia aumentato, perché il Barcellona di Guardiola ha dato una lezione di calcio, come tutti hanno potuto vedere, e l'ultimo intervento che le dico, l'Inter ieri ha subito una lezione di calcio e l'altra lezione di calcio la subirà domenica con Prandelli. L'ascolto in radio. Beh, insomma, su quella di domenica ho qualche riserva in più, per carità, tutto può accadere, però fino adesso l'Inter ha dimostrato, mi pare, di non avere grandi contraccolpi, di non subire grandi contraccolpi, no, dalle prove negative in Europa, e questo a sua volta secondo me è un mistero, cioè, perché è come se ci fossero due Inter, di cui io personalmente, ma credo che in pochi riescano a capacitarsi, no? Perché mettiamo pure, è chiaro che il Bologna piuttosto che il Siena, ma anche la Fiorentina, il Napoli, con tutto rispetto, non sono il Barcellona, però è anche vero che l'Inter dovrebbe comunque essere l'Inter, pur in rapporto al valore dell'avversario, e invece quella di ieri sera era veramente una cosa imbarazzante, con... Non so, se uno prende il rendimento di Cambiasso in Italia e lo paragona con quello europeo delle ultime due partite, perché anche in Ucraina fu sostituito dalla disperazione a fine primo tempo, quello per esempio potrebbe essere un parametro, Maicon e finché ce n'è. Chiuderei questa prima parte con un'altra analisi d'autore, ripeto, altro che quelle che ascoltate in certe resistibili TV. Questa è firmata Armando Sala e scrive: ieri ho avuto la prova provata che Ibrahimovic non c'entra nulla col gioco del Barça. Movimenti veloci, rapidità di passaggi di prima, cosa che lo slavo svedese non è in grado di fare. Adesso che non sia in grado, non lo so, non si è ancora calato dalla parte, a parer mio. Aggiunge Armando Sala: lo possono vendere tranquillamente a una grande squadra dove Ibra il fenomeno, ma lo dico con serietà, sottolinea, può tornare a esprimere le caratteristiche sue naturali. I nanetti si sono divertiti e hanno divertito, sembravano liberati da una presenza ingombrante. In panchina, oltre a Messi, hanno degli altri nanetti formidabili. L'Inter non aveva scampo se non nell'aggredire gli spagnoli con un pressing molto più alto. Per questo Mourinho resta, quello che sappiamo, un ottimo comunicatore. Questa è un'analisi, ripeto, firmata Armando Sala. Ce ne sono ancora altre, così come ci sono alcuni interventi vostri che insomma, sperando che si alzino di qualità, andranno in onda. Parlo di quelli in diretta, e poi ci sono alcune voci di vigilia, ovviamente di Juventus e Milan, e subito dopo l'intervallo quei due frammenti di Rivera che vale secondo me la pena sentire, come sempre. Buongiorno Gigi, ieri ho comprato su Sky l'incontro di calcio Barcellona-Inter, scrive Davide Lera da Brescia. Stamattina Sky mi riaccreditato l'importo di 5 euro, cioè la metà del costo dell'evento, perché ieri ha giocato una squadra sola. Sono stati carini, non le pare? Beh, insomma, è carina la battuta, oggettivamente. E volendo si può andare avanti, perché ci si potrebbe anche domandare quanto è costata a Moratti la lezione di calcio in partita dal Barça ieri sera, perché insomma qualcosa allora prenderanno, no? Ha fatto direi un'ora di lezione, perché poi hanno fatto un quarto d'ora all'intervallo tra il 60esimo e il 75esimo, che annulla il quarto d'ora finale, che è stato di nuovo una lezione di conservazione, no? del vantaggio, dovendo pensare al Real Madrid. Ma questo è ovvio che sono sono gag. Parliamo invece di cose più serie. Stamane in 24 Mattino, il programma condotto da Alessandro Milan, il sondaggio era Balotelli nazionale contro il razzismo. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Questa è un'iniziativa lanciata due giorni fa da Fare Futura, che è la fondazione che fa capo al presidente della Camera Fini. Ovviamente si può votare e state votando in molti, mi dicono. D'accordo al momento, cioè i sì sono il 48% dei voti arrivati, mentre i no sono di conseguenza il 52%. Tra i no, mi pare di aver capito, perché io non l'ho ancora ascoltato e lo ascolto adesso con vero piacere con voi, c'è il parere di Gianni Rivera. Tanto bisogna che uno si meriti la convocazione, perché e questa è la ragione principale. Poi, essendo italiano, nato in Italia, giocando nel campionato italiano, è un giocatore che può essere convocabile e quindi può benissimo andare a giocare in nazionale, come già succede in altri paesi europei che hanno fatto entrare in casa loro diversi personaggi, persone di colore diverse dalla propria e giocano in nazionale ormai da anni, per cui se dovesse succedere in Italia non credo. Capisco Cazzullo che lo dice in un modo importante, perché sentire questi continui cori contro ragazzi è un segno di razzismo che nel nostro paese non dovrebbe esistere, però purtroppo c'è. Bisogna combatterlo e questo potrebbe essere un modo, ma indubbiamente la convocazione nazionale bisogna meritarsela prima di tutto sul piano tecnico. E quindi mi sembra appunto un distinguo particolarmente significativo. Qualcuno di voi che segue l'intera programmazione radiofonica della giornata, questo intervento l'aveva già ascoltato e così il successivo, però insomma, invece direi che la grande maggioranza degli ascoltatori si muove a macchia di leopardo, no? Almeno così ci risulta, nel senso che a seconda delle fasce orarie è affezionatissimo a un programma e magari ne ignora un altro. Per tutti costoro, quindi, ma anche per il mio piacere personale di riascoltare Rivera, sentitevi questo aneddoto a proposito di ineducazione e di decenni che nel frattempo sono passati. Ai nostri tempi queste cose non capitavano, perché di giocatori di colore non ce n'erano. Noi abbiamo avuto Germano e brasiliano, che è stato anche poco, ma non abbiamo mai notato niente di particolare, forse anche perché ai brasiliani, bianchi o neri che siano, divertono sempre, quindi il problema è secondario. O forse a quei tempi c'era meno tensione sociale. E infatti adesso che si avverte maggiormente questo stato di tensione sociale, senza timore, diciamo anche razziale, perché poi alla fine non so se è un affatto razziale soltanto oppure solo un modo per mettere in difficoltà un giocatore di cui si teme la capacità tecnica, però forse vanno mescolate le due cose. Nei nostri tempi c'era l'offesa sul campo, insomma, però nessuno la sentiva, c'è sempre il diretto stato, interessato. Poi ogni tanto qualche tifoso urlava qualcosa del genere, insomma. Mia madre mi raccontò un giorno che sentì uno che disse: Rivera sei un figlio di puttana, e lei sapeva che non doveva intervenire perché gliel'avevo proibito, e quindi si è mangiata la lingua. Però poi quando è tornata a casa mi ha detto: ah, se avessi potuto gli avrei detto, ma lei lo conosce sua maestra? Altri tempi, evidentemente. Claudio da Udine, buongiorno. Buonasera Gigi, buongiorno. A parte che constatare il fatto che sia da giocatore, io sono purtroppo per me interista, constatare l'intelligenza ancora una volta di Rivera, sia come giocatore che come uomo, squisita veramente. Volevo solo farle notare questo fatto: l'Inter, questa squadra, quest'anno prende gol sempre nei primi 10 minuti. Se lei ha notato, in Champions League tutte le volte è successo. Contro il Barcellona in casa c'era andata bene, perché in 3 minuti ne avevano sbagliati 2. Sì, è vero. Questa difesa che adesso c'ha l'Inter, per me c'è solo Samuel che difende, non abbiamo difensori. Michael non rientra più ormai da quando è partito con l'aereo, che sia domenica che anche ieri non rientra più. Chi vuoi, quello che è, Samuel è l'unico difensore su questi quattro. Credo che questa squadra non possa sopportare anche un Lucio, in panchina. Anche Lucio è un po' il vizio della gita scolastica ogni tanto. Esatto, esatto. Tra l'altro, quindi, cosa ne pensa? Penso che sia abbastanza vero, però penso che in una giornata come ieri è tutta la squadra, perché adesso non stiamo. È vero che Ibrahimovic non ha giocato, è vero che per il momento non è adatto al gioco del Barcellona. Io sono d'accordo se aggiungiamo per il momento, perché poi insomma l'unico che ieri sera del Barcellona non ha inciso è Henry, no? Cioè, io dico che se Ibrahimovic si cala nella parte di fare il pivot avanzato che gioca di prima e i piedi ce l'ha, anzi i piedoni ce l'ha, beh insomma tra avere Henry o avere Ibra lì davanti secondo me c'è un filino di differenza. E comunque Ibrahimovic e To di qua alla io ho visto battersi alla loro altezza nella fase iniziale, cioè la più difficile, prima di arrendersi ho visto Milito e Zanetti, direi i due, e Samuel. I tre che mi hanno dato l'impressione di essere al loro livello, alla loro altezza, ma poi è chiaro che quando ti frana tutto intorno diventa difficile, portiere compreso, poi diventa difficile resistere a quei livelli. E contro una squadra così, così inserata, di grazia, ma così comunque stupendamente strutturata e ispirata. Simone ha chiamato da Lucca. Lucca, sì. Buongiorno. Sì. Buon pomeriggio, Garanzia. Ascolti, la chiamavo per questo. Ieri sera, per due considerazioni, ieri sera ero allo stadio a Firenze in maratona. Attorno a me c'erano personaggi che criticavano aspramente l'operato di Frey ieri sera, perché è stato un pochino incerto in certe uscite. Quindi la considerazione è questa, cosa ne pensa lei di questa opinione? E la seconda, quest'altra. Da qualche anno la Fiorentina sta andando bene, è in Champions. Cosa deve fare per avere l'attenzione della RAI? Noi paghiamo il canone come lo pagano in Lombardia e come lo pagano in Piemonte, perché non ci considerano? Questa della congiura contro i fiorentini è una vecchia storia, mi pare che a tirarsela da vittime sono buoni tutti in Italia, ma di volta in volta ovviamente, no? Ma la Fiorentina mi pare che abbia un suo talento particolare in materia. Non mi chieda delle uscite di Frey, perché io stavo guardando Barcellona-Inter con tutto il rispetto possibile. Ho visto dei filmati alla fine, mi pare che se negli ultimi 10 minuti anziché Frey c'era un altro portiere, la partita finiva diversamente. Poi la Fiorentina sarebbe qualificata uguale, ma magari il prossimo turno. Questa almeno è stata la mia impressione. Ho antichi ricordi comunque di frequentazione di stadi in cui ci sono sempre quelli che i vicini di posto che il calcio l'hanno inventato loro e che il film l'hanno già visto prima, eccetera eccetera, e che comunque è difficile che ne sbaglino una. Ritornerei, ripeto, alle analisi scritte arrivate in mattinata. Massimo Gagliardoni: forse lei potrà essere in grado, scrive, di spiegare l'ennesima disfatta di una squadra che nel nostro campionato non teme nessuno, ma quando varca i confini diventa una squadra balbettante e impaurita. Ieri sera poi ho pensato che questo allenatore tutto sia tranne che un buon psicologo. È da anni che vedo l'Inter nelle varie coppe, ma questo atteggiamento provinciale che si appresta per la prima volta alla competizione internazionale con un timore riverenziale mai visto mi ha veramente impressionato, anche perché con squadre meno forti di questo Barcellona l'Inter se l'era sempre giocata. In effetti anche questo va a cogliere un altro aspetto singolare, e cioè è inutile che ripercorriamo anni di delusioni europee dell'Inter, però a me sembra di ricordare che nella gestione manciniana ci fosse, come dire, un ribellarsi alla sorte con un uso eccessivo con una concessione eccessiva ai nervi, e le espulsioni non mancavano in effetti, no? In quell'epoca, mentre nell'epoca moliniana mi pare che quel problema sia stato risolto, ma al costo del cloroformio, però, nel senso che la squadra sembra penso al primo tempo con il Manchester United, penso alla partita anche con il Barcellona in casa, soprattutto nella prima parte, penso a ieri sera, dà l'impressione del cavallo che rifiuta l'ostacolo alto quasi, perché lo vede troppo, e questo secondo me è un discreto mistero. Giovanni Palermo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, innanzitutto da interista dico grazie al Barcellona, perché dobbiamo onorare ciò che è bello e che è figo allo stesso tempo, chi ama il calcio. Però tratterei, e non so se siete d'accordo, la questione Barcellona come una sorta di rivoluzione in termini calcistici. A me sembra questa una squadra che è destinata a dominare per qualche anno, forse quello che diceva Ibrahimovic, che giocano il calcio del 2015 è proprio vero. Ma questo nel senso che questo è probabile, che... è probabile, perché è una rivoluzione, le ripeto, che comincia di lontano, perché Cruyff va a giocare a Barcellona verso la metà degli anni 70 e già esporta questa filosofia olandese, poi perfezionata da calciatore, e poi la perfeziona una volta che arriva alla guida tecnica della squadra. E la cosa va avanti negli anni e si tramanda, cioè poi ci sono state altre gestioni. Io penso alle ultime due, Rijkaard per primo e Guardiola poi. È evidente che la differenza di rendimento e risultati e spettacolarità poi la fanno gli interpreti, cioè adesso il Barcellona ha una nidiata, una covata straordinaria, assoluta. Però è vero che tutto avviene nel solco di una programmazione e soprattutto di una filosofia, che è indubbiamente da tanti anni a questa parte la più spettacolare, la più divertente del mondo. Questa è un'opinione mia, ma mi pare di capire non solo mia. Non trova riduttivo, domanda Rosario da Napoli, trovare la solita scusa di contestare l'arbitro per un rigore? Ma Rosario, in un caso come quello di ieri sera, lei vince il premio bontà, perché non è riduttivo l'aggettivo esatto, lo trovo cialtronesco come sempre, perché intanto io non ho visto nessun rigore, e questo sarà un problema mio evidentemente, ma non solo mio, avendo ascoltato qualche parere e letto qualche analisi. Semmai ho visto qualche cartellino risparmiato nel primo tempo a Maicon, per esempio, nel secondo tempo a Motta, che meritava il secondo, a parer mio anche a Milito, perché in ogni caso l'arbitro può decidere se ammonire o espellere Pujol per quell'entrata, ma tu non hai il diritto di alzarti e di andare a dargli una manata, almeno questo non risulta. Ma queste sono piccole miserie, no? che al novantesimo chiunque dimentica dopo una lezione di calcio così stratosferica, tutti meno uno non, anche qui dove sarà la novità, la notizia. Ripassiamo la storia del 25 novembre come sempre affidandoci a Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 novembre 1990. Nel campionato che culminerà con lo scudetto, la Sampdoria rimedia la prima delle tre sconfitte stagionali, in casa contro il Genoa per 2-1. I rossoblù, allenati da Osvaldo Bagnoli, si erano portati in vantaggio con Eranio nel primo tempo, ma erano stati raggiunti a inizio ripresa da Vialli su rigore. La rete che decide la gara la firma al 74esimo il brasiliano Branco, con un gran calcio di punizione, tuttora uno dei gol più celebri nella storia del derby. Il Genoa non batteva la Sampdoria in Serie A dal 1977. Anche allora era finita 2-1, con un gol decisivo di Pruzzo. E questo è sarà di buon auspicio, immagino, per i genovani, in vista, non so come la prenderanno i sampdoriani, in vista del derby di sabato sera, nella speranza che sia un po' più civile degli ultimi, e questo complessivamente. Daniele da Tortona scrive: quelli di Rivera altri tempi, forse altre tensioni, i cretini allora gridavano Vesuvio bruciali, che resta pur sempre razzismo, resta razzismo e anche di più, caro Daniele, ma quelli di Rivera erano altri tempi ancora. Lei sta parlando della metà degli anni 80, grosso modo. Rivera si è ritirato nel 79, e io negli anni 70 ancora c'erano altri drammi in Italia, se parliamo di tensioni e di brutture, ma il calcio al momento ne era ancora abbastanza esente. Un altro ascoltatore, Paolo da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo fare due considerazioni e sentire un po' una sua opinione. Sono interista e ieri sera siamo tornati un po' al passato e mi è venuto un pochino il male. Volevo chiedere questo, ma riguardo a Eto'o, io ho visto alcune immagini di Eto'o nel Barcellona, quando lui faceva sfracelli giocando un pochino sull'esterno, rientrando, calciando, comunque facendo segnare avversari, cosa che nell'Inter aspetta qualche triangolazione con qualcuno, sperando che qualcuno arrivi a darle una mano, insomma mi sembra un pochino più limitato. La seconda considerazione, e poi l'ascolto per radio, ieri sera perché risparmiare uno Sneijder quando, se si fosse giocato per vincere, probabilmente il Barcellona sarebbe uscito dalla Champions, ovviamente se il risultato l'avrebbe portato. Ma senta, io credo che credo che non c'era Snyder che tenesse ieri sera, no? Cioè, questa è un'altra delle panzane di Mourinho. Panzane no, ma insomma, comunque un'altra delle scuse che Mourinho può prendere alla fine, perché io non credo che un giocatore sia in grado di cambiare una squadra. Prendiamo giocatori più forti di Snyder, no? Con tutto il rispetto, prendiamo Iniesta o Xavi, che sono in questo momento davvero di un'altra categoria. Io non credo che se ne mancava uno dei due il Barcellona si sarebbe smarrito nella maniera in cui si è smarrita l'Inter. Quindi è una squadra intera che è mancata ieri sera. Poi certo, della qualità e dell'inventiva di Snyder l'Inter avrebbe saputo cosa farsene, ma a patto che recuperassero il pallone gli altri, no? Aiutandolo, si smarcassero come si deve gli attaccanti e la difesa avesse tutta un'altra, fosse più alta, tutta la squadra fosse più aggressiva, eccetera eccetera eccetera. Mi convince di più il suo discorso su Eto'o. È chiaro, basta vedere giocare come gioca il Barça. Lo so anch'io che Eto'o ha fatto tonnellate di gol là, e sinceramente lo sospettavo anche prima che potesse andare così, il che non vuol dire che Eto'o non sia un signor giocatore, però altro è buttarla dentro a coronamento, diciamo, di come gioca il Barcellona, altro è di palle rasoterra non vederne tantissime invece come capita all'Inter, e giocare in queste condizioni di soggezione come è capitato per esempio ieri sera. Sentiamo due vigilie rapide delle due partite di stasera, su cui poi ovviamente ci dilungheremo domani, cominciando da Milan-Marsiglia affidando questa breve vigilia a Seedorf. L'Olympic Marseille è una squadra molto, molto forte. Noi abbiamo fatto risultati veramente importanti lì, perché comunque anche secondo tempo abbiamo capito anche la loro forza, quando diciamo in quel momento hanno avuto 20 minuti importanti. Poi l'abbiamo visto anche contro Madrid. È una squadra che va rispettato, ha il nostro rispetto, e noi sappiamo cosa fare e quello imporre il nostro gioco sapendo le loro qualità. Infatti, imporre il nostro gioco. Il Milan è l'unica altra squadra europea, a parer mio, non britannica, perché gli inglesi giocano alla stessa maniera più o meno da secoli, ed è un pregio insieme a un limite. L'unica squadra europea non britannica che, per cui possano valere grosso modo gli stessi discorsi che si sono fatti per il Barcellona sul fatto dell'impronta, del sistema, di qualcosa che si tramanda, insomma, no? Addirittura tra generazioni di calciatori. La vigilia della Juve, di Bordeaux Juventus, Cannavaro. Diciamo che una squadra come la Juve va sempre per vincere. È una partita dove sappiamo che se vogliamo passare il turno dobbiamo tornare a casa con i tre punti, fare una bella prestazione, perché comunque abbiamo delle partite qui a Natale che ci possono dire chi siamo. Antonio ha chiamato da Ragusa, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Ascolti, dopo la partita di andata Mourinho ai giornalisti che gli facevano notare il non gioco dell'Inter rispondeva che in Italia sono abituati al catenaccio. Beh, io direi che un catenaccio... E aveva anche rivendicato un capolavoro, mi pare, dell'Inter, no? Quella sì, sera, infatti. Se non ricordo. Il catenaccio prevede intanto il contropiede e poi il fatto di non fare giocare la squadra avversaria. Invece ieri si è visto un non gioco che... sarebbe stato preferibile un catenaccio vecchia maniera, non so cosa ne pensa. Grazie, buonasera. Sì, penso che in questi anni, adesso senza esagerare, ma insomma diciamo che da parecchio tempo questa parte è l'unica squadra in Coppa che è andata al Camp Nou e che ha messo in serie difficoltà il Barcellona e meritava pure di più nel doppio confronto, è stato il Chelsea, che ha fatto un catenaggio da un certo punto di vista ignobile e dall'altro efficacissimo, il Chelsea di Hiddink. Se vai là a giocare ti mettono sotto. Questo è un merito del Barça e un demerito di chi aspira a essere come il Barça. C'era Franco Piantanide in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio a tutti.